Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando martedì ai microfoni, vi augura il benvenuto a questa settimana favolosa di eventi che vedranno veramente il libro protagonista. La settimana scorsa ci eravamo salutati veramente con un brevissimo commento su quella che era stata la parentesi sanremese, e effettivamente sono tante le cose che abbiamo potuto leggere, ascoltare in queste ultime settimane, e stiamo lavorando affinché magari qualche ospite sarà anche qui con noi, probabilmente in collegamento telefonico, ma chissà, forse no, ai microfoni di Radio Alma e di Brussellando, ma ne saprete di più nelle prossime settimane. Ma la protagonista vera di questa sera è la lettura. Ritornano i libri, ritornano assolutamente protagonisti, perché giovedì, quindi tra qualche giorno, si aprirà la fiera, la Foire du Livre, il Salone del Libro di Bruxelles, che vede nuovamente l'Italia tra le protagoniste, sebbene l'ospite di onore di quest'anno sia il Quebec. Noi ne parleremo con due ospiti di eccezione, in particolare con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Paolo Grossi, per la prima volta nostro ospite a Brussellando, quindi sentiremo dalla sua voce quelle che sono le attività dell'istituto in questi giorni, e poi sentiremo il lato magari più pratico, la presenza infatti alla Foire du Livre della Libreria Piola, che come sapete è uno dei nostri partner preferiti. Restate con noi, Daniem ha un suggerimento musicale per noi. E poi ci ritroveremo in compagnia di Paolo Grossi, Radio Alma, martedì, Brussellando. Cari amiche, cari amici, bentornati. Quindi, come dicevamo in apertura, sono particolarmente emozionata questa sera perché è in collegamento telefonico Paolo Grossi, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Direttore, benvenuto a Radio Alma e a Brussellando. Sono molto lieta di accoglierla anche a nome di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Brussellando, perché da quando si è insediato da qualche mese, questa è finalmente la prima occasione in cui riusciamo anche ad accoglierla nei nostri, diciamo, incontri settimanali. Sarei curiosa quindi, così come credo i nostri amici all'ascolto, se potesse raccontarci brevemente del suo cammino, perché ha un profilo veramente molto interessante, ha pubblicato studi in italiano, in francese, sulla letteratura italiana, moderna e contemporanea, e ha svolto anche ruoli non solo in Italia, insomma, di un certo interesse, ma anche all'estero. Quindi magari se volesse accennare brevemente a quelli che sono i suoi trascorsi prima di arrivare qui a Bruxelles. Come italianista ho insegnato all'università in Svezia e in Francia, mi sono occupato di letteratura italiana contemporanea e poi ho lavorato negli istituti, prima a Parigi dove ero vice direttore, successivamente ho preso la direzione dell'istituto di Stoccolma, da cui provengo dopo un breve soggiorno a Roma, e continuo comunque a coltivare degli interessi parigini perché dirigo una collana di italianistica a Parigi che si può tutto. Beh, mi sembrano essere argomenti che poi svilupperemo anche durante l'intervista. Veniamo anche alla ragione di questa nostra chiacchierata questa sera. Come saprete, cari amiche e cari amici, tra qualche giorno ci sarà la Foire du Livre, che vedrà nuovamente protagonista anche l'Italia. Quindi, direttore, saremmo felici se lei potesse raccontarci soprattutto dell'iniziativa che è stata ideata in occasione della Foire du Livre su un programma tutto al femminile intitolato Je vous écris d'Italie, quindi cinque voci di donne. Come mai questa scelta? Ci è parso, facendo così un esame un po' della produzione narrativa degli ultimi anni, cogliere in queste voci così una singolarità, una originalità di sguardo sulla realtà italiana. Quindi l'ambizione è quella di invitare i lettori a scoprire l'Italia attraverso gli occhi, lo sguardo di queste scrittrici, tutte molto con grande intensità impegnate a misurarsi con la concretezza dell'oggi. Ecco, romanzo di Meliana Mazzucco che affronta la realtà della guerra in Afghanistan attraverso lo sguardo di una donna soldato, a Francesca Melandri che affronta un tema ancora forte nella realtà italiana, l'eco del terrorismo degli anni di piombo, per arrivare a Elena Janecek che si misura col dramma di Auschwitz, la storia di una madre che con la figlia ritorna sul luogo della deportazione. Cioè temi drammatici, intensi, che si misurano con momenti chiave della storia più recente e lontana anche del nostro paese. Però poi abbiamo tematiche anche molto interessanti, perché ho letto molte cose recentemente in merito, ed è una tavola rotonda dedicata al corpo, Regard sur le corps, in collaborazione, o comunque tra le protagoniste ci sarà Michela Marzano. Quindi i temi variano, sono veramente, toccano più sfere dell'attualità. Sì, ci va anche proprio da una testimonianza sull'intimo e sul privato, che è comunque un aspetto fondamentale, come dire, della realtà contemporanea. E direi che, ecco, proprio Michela Marzano, per la peculiarità del suo sguardo di narratrice e di filosofa, di saggista e di costruttrice di storie che affondano poi le loro radici nell'intimo, nel privato, si distingue per la peculiarità di uno sguardo, e si tratta tra l'altro di un romanzo che Michela ha scritto direttamente in francese, Tout ce que je sais de l'amour. Quindi comunque accade anche il contrario, cioè che gli italiani poi scrivano anche in una lingua diversa dalla propria. Esatto. E questo mi porta a porre un'altra domanda, perché non ci saranno solo incontri letterari, ma ci saranno anche tavole rotonde, e ce n'è una in particolare che ha attirato la mia attenzione, perché proprio recentemente ho intervistato un traduttore che traduce in particolare, in questo caso, dal tedesco verso l'italiano. Quindi a lei invece pongo un'altra domanda: perché tradurre i romanzi italiani? Ecco, questo è appunto il titolo della tavola rotonda che lei ha evocato tuttora, e che è proprio uno dei temi chiave della nostra riflessione, cioè la promozione del libro italiano all'estero. Perché si traduce il libro italiano all'estero? Quali romanzi si traducono? Se si dà uno sguardo alle realtà editoriali più diverse dell'Europa di oggi, dalla Svezia alla Francia all'Olanda, si coglie anche una varietà di scelte. E si impone alla riflessione l'esigenza di una politica più unitaria sul tema proprio della promozione editoriale. Sarà quello uno dei temi che affronteremo in questa tavola rotonda in collaborazione con la Fondazione Mondadori, che ha realizzato il primo portale italiano per la promozione del libro italiano all'estero. Un portale a cui ho collaborato personalmente, si chiama Books in Italy, sarà uno dei temi portanti di questo dibattito. Mi sembra essere un'ottima notizia, anche perché quando si pensa al libro, ormai sono anni che partecipo alla Fiera del Libro, e mi ricordo che qualche anno fa c'era una domanda abbastanza provocatoria: il libro cartaceo morirà. Eppure ieri ho partecipato ad una conferenza in cui c'erano vari dati sull'e-commerce, e pare che se invece c'è un settore che proprio non decolla nelle vendite è quello del cosiddetto ebook. Direttore, secondo lei questo è dovuto a che cosa? Al fatto che proprio questo libro elettronico non piace, o perché invece si legge sempre di meno? Ma dalle informazioni che a me sono giunte sembra che si sia arrivati, almeno in certi paesi, probabilmente non nel nostro, a un livello oltre il quale è difficile che lo sviluppo dell'ebook, almeno per un certo tipo di libro, possa andare. Per cui il paesaggio verso cui ci si sta dirigendo è quello di una convivenza più o meno equilibrata di cartaceo e di libro digitale, il che contraddice un po' le funeste previsioni di chi parlavano, come dire, di una morte del libro cartaceo. In realtà i dati erano dati europei, erano dati aggregati che facevano riferimento ai 28, quindi probabilmente ha ragione lei, insomma c'è una certa ponderazione tra i due strumenti, anche se probabilmente in Italia probabilmente si legge poco e si comprano pochi ebook. Qui entra in gioco un fattore legato alla cosiddetta crisi che conosciamo, cioè la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, ha inciso sui consumi meno strettamente necessari ed obiettivamente la nostra editoria è in uno stato di forte sofferenza, più di quanto non accada in altre editorie. Pensiamo al caso della Francia, che pure si lamenta, ma in condizioni migliori della nostra. Quindi comunque ci sono delle differenze, nonostante la crisi economica. Quindi lei ha un'esperienza svedese, un'esperienza francese, ovviamente ora sta maturando anche un'esperienza belga. Vede delle differenze quindi nel comportamento dei mercati, o meglio dei consumatori, in questo senso? Ma in realtà, diciamo, nella realtà francese c'è ancora un mercato che tiene abbastanza bene. In una realtà come quella svedese, molto marcata da un orientamento verso il mondo anglosassone, c'è una presenza del libro digitale più spiccata, quindi ci sono effettivamente variazioni, ma certamente in questi due mercati c'è una tenuta migliore rispetto a quanto, ahimè, non accada da noi. Sono curiosa invece di saperne di più sulla rivista che lei ha creato in Svezia, quella in bilingue, allora, intitolata Carta d'Italia. Molto, perché la rivista tornerà a nascere qui a Bruxelles tra poco, sempre con questo nome, Carta d'Italia. Il nome riflette quello che è l'obiettivo della rivista, cioè tracciare una cartografia della cultura italiana contemporanea. Lo abbiamo fatto in Svezia in formato bilingue, italiano-svedese, lo faremo a Bruxelles in formato quadrilingue, cioè italiano-francese, neerlandese e inglese. E posso già annunciare sin d'ora che il primo numero della serie belga di questa rivista sarà dedicato al documentario italiano, uno dei settori direi più vitali del nostro cinema. E direttore, la rivista avrà cadenza mensile? Oppure No, per il momento, vista la limitatezza dei mezzi, l'impegno forte che comporta una rivista di questo livello, sarà a cadenza annuale. E mi sembra essere già un ottimo... Sarà diretto da Emiliano Morreale, che è, sarà curato, diciamo, da Emiliano Morreale, che è, come è noto, il direttore della Cineteca Nazionale di Roma. Mi sembrano essere tutte ottime notizie. Quindi parliamo di futuro, parliamo di cultura, di letteratura. Che cosa bolle in pentola, invece, all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per i prossimi mesi? Ma il prossimo mese, a marzo, la più grande novità tra marzo e aprile è un nuovo ciclo di incontri organizzato in collaborazione con il Sole 24 Ore, in particolare con quel supplemento domenicale che si chiama Nova 24, dedicata all'innovazione e alle nuove tecnologie. L'idea è quella di fare incontrare il pubblico con dei protagonisti dell'Italia di domani, cioè persone, imprenditori, scienziati che stanno costruendo l'Italia di domani. Sono specialisti di informatica, sono creatori di start-up, sono creatori di social networks di carattere fortemente innovativo e sono convinto che potranno riservare delle sorprese per il pubblico di Bruxelles, cioè mostrando un lato forse meno noto del nostro paese, cioè di una forte capacità di proiezione innovativa. Ha già qualche data in mente oppure un evento in particolare? Intanto già il primo incontro del 4 marzo, che si svolgerà al Bosar, mentre gli altri saranno in istituto, avrà come oggetto uno dei temi più, più forti di oggi, cioè quello dei big data, uh-huh, della privacy, cioè chi possiede i dati miei personali che transitano nella rete, uh-huh, e qual è il limite tra, diciamo, partecipazione dei dati e rispetto della privacy. Avremo la fortuna di avere uno dei maggiori specialisti mondiali di questo tema, il professor Pedreschi dell'Università di Pisa, che ha vinto tra l'altro un grosso premio messo in palio proprio da Google sui temi del rispetto della privacy. E queste sono tematiche che poi ci portano in un contesto tipico bruxellese che va da specialità squisitamente locali a specialità oltremodo internazionali, già che proprio l'argomento della protezione dei dati personali, è uno degli argomenti che il Presidente Juncker ha fatto propri per questa nuova commissione che ha cominciato i lavori qualche mese fa. Direttore, io la ringrazio perché credo che la cultura non è soltanto produrre libri, perché molto spesso ci dicono che i libri servono a poco. La cultura è anche quello che produciamo, è anche quello che facciamo innovando. Quindi veramente a nome di Brusselando e di Radio Alma saremo molto lieti di promuovere questo evento anche sul nostro sito internet. Poiché il tempo è tiranno, ahimè, vorrei trattenerla qui con noi per più tempo, quindi le volevo ancora rubare però un minuto del suo tempo. Vorrebbe aggiungere qualcosa che non gli ho chiesto in chiusura agli amici di Radio Alma e di Brusselando? Ma vorrei chiarire un po' come mi sto muovendo in questi primi mesi di lavoro, cioè cercando di lavorare il più possibile con le istituzioni belghe. L'obiettivo è quello un po' di uscire dalle mura della Rue de Livourne per lavorare con le istituzioni del paese, in modo che le attività dell'istituto si aprano a un pubblico più vasto. Abbiamo cominciato a lavorare con Beaux-Arts, continueremo adesso col SIVA, il Centro per l'Architettura della Città di Bruxelles. Abbiamo progetti di ulteriori partenariati con le maggiori istituzioni del Belgio, non solo di Bruxelles, perché la nostra missione è di occuparci di tutto il Belgio. Direttore, mi sembra essere un messaggio veramente di incoraggiamento anche per tutti gli italiani, e sono tanti, come sa, che vivono qui a Bruxelles. Noi ovviamente gli auguriamo un buon lavoro. Grazie. E ricordiamo quindi ai nostri amici la Foire du Livre, che comincerà il prossimo 26 febbraio e fino al 2 marzo. Direttore, ancora quindi tanti auguri, buon lavoro, e sicuramente avremo modo di risentirci. Grazie a lei, alla prossima. Allora. Buonasera. Cari amiche e cari amici, bentornati. Quindi continuiamo a parlare della Foire du Livre che aprirà i battenti il prossimo 26 febbraio, e lo facciamo, sono davvero contenta, con Jacopo Panizza, che è tra i fondatori della Piola Libri. Jacopo, benvenuto a Radio Alma, Brusselando. Ciao a tutti, ciao Marilena. Allora, noi, Jacopo, abbiamo parlato poc'anzi con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Paolo Grossi, su quelle che sono gli eventi culturali che riguardano il libro italiano. Sono curiosa quindi di sapere qual è la tua esperienza come esponente anche dell'altro lato della medaglia, cioè i libri e la vendita dei libri stessi. Sì Marilena, no, dunque non sarà la prima volta che noi saremo presenti alla Fiera del Libro di Bruxelles, dato che la prima volta è stata circa 7-8 anni fa, quando abbiamo aperto e che dividevamo il nostro stand con tutte le altre librerie non di lingua francofona presenti appunto in città. Poi 2-3 anni fa eravamo presenti con uno stand molto molto grande, dato che l'Italia è invitato d'onore, invece quest'anno avremo uno stand medio che faremo un po' da contorno agli eventi che l'istituto organizza con queste 5 autrici, questa presenza femminile alla fiera, tra cui la Mazzucco, la Melandri ed altre. Dunque avremo uno stand e cercheremo sempre di dare una presenza di editoria italiana alla fiera, ad una fiera francofona. Dunque una cosa importante, nonostante un periodo di grossa crisi della carta stampata, credo che sia comunque, siamo felici di avere di mantenere una presenza sul territorio, come lo facciamo da tanti anni. Jacopo, ho una domanda, no? Che bolle in pentola veramente da molto tempo, ma i francofoni, ora lasciamo stare un attimo gli italiani che sono abituati a leggere, certo, in italiano, ma certo, c'è una richiesta di francofoni oppure di lettori di lingua neerlandofona che leggono l'italiano e hanno piacere di leggere i romanzi in italiano? Ma ti dico, guarda, sinceramente sono tra i nostri clienti, soprattutto negli anni, più della metà sono non madrelingua italiana, perché comunque gli italiani o il libro lo possono comprare all'aeroporto le volte che tornano in Italia, invece maggiori è il numero di clienti francofoni, ma soprattutto di madrelingua fiamminghi, che sono più interessati alla cultura e alla lingua italiana. Preferiscono, credo che per mia esperienza, i fiamminghi preferiscono andare in vacanza in Italia che in Francia, dunque si avvicinano di più alla lingua italiana e sono tra i nostri maggiori clienti, anche e soprattutto tantissimi sulle biblioteche nelle Fiandre che fanno richiesta di libri in italiano, appunto noi forniamo. Quindi nonostante una globalizzazione che tende verso l'inglese ed altre lingue pure forti, l'italiano si difende. No, no, anzi, sempre, è strano come, cioè, come negli anni tutto quello che tutte le critiche verso l'Italia, tutti i problemi che ci sono, che ben sappiamo, non si può raccontare, però e invece c'è un, comunque mantiene la cultura italiana, la lingua italiana mantiene comunque un enorme interesse per gli stranieri, ma tantissimi inglesi, madrelingua inglesi, fiamminghi, sono molto interessati a leggere in italiano, alla cultura in italiana in generale, dunque siamo felici di questa, Jacopo, nella tua esperienza, ormai sono tanti anni che la Piola è qui a Bruxelles, come lo vedi il futuro del libro? Così, parlando tra di noi, secondo te, verso dove stiamo andando? Io spero che il libro diventi come si sta trasformando il vinile per la musica in questi ultimi tempi. Comunque, forse tu lo sai, in questi ultimi anni le vendite dei vinili sono esplose. Pochissimi comprano CD, però il vinile continuano a comprarlo, anzi c'è una riscoperta del vinile e dell'oggetto. Credo che comunque il libro come oggetto non scomparirà mai, per fortuna, perché comunque è sempre un qualcosa che fa piacere ricevere, fa piacere avere, possedere. Credo che sia questo un po' il futuro del libro. Allora Jacopo, i tempi, come sai, in radio sono effettivamente su tiranni, no? Quindi dove ti possono trovare le amiche e gli amici di Radio Alma e di Bruxellando dal 26 febbraio al 2 marzo? Dunque allo stand 117 alla Fiera del Libro a Bruxelles, a Ture Taxi. Jacopo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie, ciao. Ciao Marilena, ciao. Cari amici e cari amiche, benvenuti a Bruxellando 2.0. Già, Bruxellando 2.0, seconda parte, Evolution, chiamatela come volete, ormai adesso sapete che c'è una seconda parte, troveremo prima o poi un nome a questa cosa. E ovviamente, come al solito, ci accompagna Daniele in regia e... Fiordaliso. Eccola qua di fronte a noi, Fiordaliso, che ovviamente è sempre questa cosa bella e inaspettata. Come fa a essere una cosa bella e inaspettata anche se io so che ci sei ogni martedì? Questo è un mistero di cui dovresti parlare con qualche fisico, non so, con Stephen Hawking, con Richard Feynman, un matematico, cioè sono loro che dovrebbero scoprire per noi questi misteri. Vorrei parlarne con Biro, se tu fossi d'accordo, se sei d'accordo. Perché sono una penna a sfera? No, perché è un inventore, quindi magari potrebbe inventare anche una ragione per cui è sempre così bello. Beh, bello che cosa? Beh, quello che cominciamo oggi, che però non introduco, perché oggi facciamo una cosa diversa. Oggi non c'è Librangolo. Non voglio diciamo introdurlo Librangolo. C'è, non c'è. Più che Librangolo, Giornangolo? Forse Giornangolo, non lo so. Potrebbe essere anche Giornangolo. Beh, comunque oggi presentiamo e cominciamo subito con Giornangolo. Va bene, mi e adeguo. Quindi che succede a Giornangolo? A Giornangolo quello che succede è che un paio di giorni fa ho visto sull'Internazionale un articolo che non era altro che una critica su una nuova fiction che hanno girato sulla Oriana Fallaci. E ovviamente questo mi interessava leggere anche perché Oriana Fallaci come scrittrice mi è sempre piaciuta, cioè i suoi scritti mi hanno sempre coinvolta, diciamo. Quindi ho letto questa critica che era abbastanza, si dice in italiano, dismissiva. Beh, una critica che criticava, una critica era contraria, che si opponeva, che decisamente a volte se eccessiva denigrava o comunque una tesi contraria. Ecco, comunque, allora, al critico non è piaciuta la fiction. Mm-hmm. E se quello che dice è vero, neanche a me piacerebbe la fiction, perché quello che dice, fra altre cose, è che appiattisce la vita di questo personaggio sfaccettato e pieno di contraddizioni su una donna che sembra ingenua e sempre sorpresa di fronte agli avvenimenti con cui è confrontata. A me la Oriana Fallaci non mi è mai sembrata così. Due, che si riduce al desiderio per un bambino e è tipo a un tipo di femminismo, più o meno. Sì, direi molto riduttivo se è così, è Molto vero. riduttivo se è così, effettivamente, e magari come giornangolo dovrei prima di tutto raccomandarvi di leggervi questa critica che porta anche delle citazioni da articoli e opere della Oriana Fallaci per sottolineare cioè, la diversità del personaggio rispetto al personaggio un po' papabile, se lo posso chiamare così, che è presentato in questa fiction, che però io non ho visto, quindi a questo punto mi fermerei. Sulla fiction, cioè, ma non sulla Oriana Fallaci, Beh, però io ovviamente. vorrei spezzare una lancia, anche se non ho visto la fiction e non ho letto l'articolo premesso, però lei comunque ha scritto lettera a un bambino mai nato. Eh sì, certo, ed era anche una cosa importante, molto vissuta e molto personale per Oriana Fallaci. Se io mi ricordo bene, l'aveva scritto mentre aveva la sua relazione con Aleko Spanagoulis. Sì, signora, vedo che sei molto informata. È perché io ho letto un uomo, Ah, il ecco. libro, E allora. ovviamente, e quello, cioè, già che stiamo parlando di Oriana Fallaci, allora comunque scivoliamo un po' anche in Librangolo. Ne avevamo già parlato di un uomo a Librangolo e non posso ribadire che è un libro bellissimo e commovente. Molto sincero, su una relazione amorosa molto difficile, tormentato fra due persone molto passionali, molto indipendenti, e quindi cioè è un libro che io vi raccomando, continuo a raccomandarvi con tanto calore. E comunque in questo libro un uomo, lei descrive anche la situazione in cui lei perde il suo bambino, quindi la situazione che alla fine la porta a scrivere il libro Lettera ad un bambino mai nato. Quindi, quindi se volete anche, Oriana non era, cioè l'Oriana, cioè, o la Fallaci, non era una persona che si nascondeva, anzi era dentro in modo molto personale in qualsiasi delle sue interviste, in qualsiasi dei suoi libri, e quindi se volete conoscerla basta leggere qualsiasi cosa di lei e immediatamente avrete una immagine molto più vera sulla sua personalità. Oltre a un uomo, cioè, ha scritto anche se questo è un uomo. Quello non l'ho letto, tu l'hai letto? No, me l'ha scritto prima Levi, però insomma io ho sempre fatto confusione fra un uomo e se questo è un uomo. È ovvio, avevo un'età giovincella e mi sentii parlare di un uomo e qualcuno deve aver fatto a quel tempo menzionato, hai letto se questo è un uomo di Oriana Fallaci? E così io per molto tempo non sono riuscito a distinguere, facevo continuamente confusione fra un uomo e se questo è un uomo, due cose che proprio non c'entro una con l'altra, lo ammetto, ma tanto per avvertire che a volte nella nostra testa ci sono dei clash e rimangono tali, ci sono così dei ghirigori, delle cose che si scontrano, che si attaccano in modo sbagliato e rimangono. Vabbè, altro Quello, bellissimo libro. però, ritornando dalla Fallaci, io l'ho incontrata per la prima volta, nel libro che si chiama Se il sole muore, e sono stata immediatamente tirata in questo suo stile, perché effettivamente quello che uno legge in Se il sole muore, in cui si tratta degli astronauti del primo sbarco sulla Luna, e effettivamente il suo stile di intervistare, che è molto personale, che praticamente è un flusso di parole che tira dentro il lettore e che è molto coinvolgente anche per le persone che sta intervistando. Dopo, se voi leggete un po' lei come si preparava, si realizza che queste interviste non erano affatto così spontanee come sembrano, trapelano attraverso le scritte di Oriana Fallaci, ma erano molto ben preparate, molto bene ricercate. Lei conosceva sempre già quasi a fondo i personaggi che andava ad intervistare ed anche così riusciva più a giocarli, nel senso di tirarli fuori dal loro guscio e di farli vedere da punti di vista mai viste. E già che sono qua, forse chiederò a Georges di leggerci un brano di una sua intervista dalla prima parte della sua carriera, quando faceva delle interviste più di tipo glamour, in questo caso a Sean Connery. Il mio incontro con l'idolo avvenne a Parigi, dove stava girando il prologo del prossimo film, Thunderball. Terence Young e l'art director Ken Adams me lo portarono a cena per rompere il ghiaccio. E questo era lui, questo gigante dal volto pieno, tuttavia segnato da rughe profonde come cicatrici e gli occhi grandi, inermi, indifesi. Colpiva anzitutto per quello, e poi per l'amore, davvero imponente, drammatizzata da spalle eccessive, spalle di un uomo che mangia molto, beve molto e fa molto l'amore. Infine, ma questo si capiva più tardi, colpiva per la sua timidezza, una timidezza da adulto che è scontento di sé e probabilmente assai solo, assai incerto. Nessuno davvero potrebbe assomigliare a James Bond meno di Sean Connery. La cena era in un ristorante con la TV. La TV trasmetteva l'incontro dell'Inter col Glasgow Rangers. Si mise a tifare per la squadra scozzese. Sul braccio destro ha un tatuaggio che dice Scotland Forever. E ciò gli servì per prendere tempo, per studiarmi, decidere se l'intervista l'avrebbe fatta sì o no. E diffidente fino allo spasimo. Non avevo rubato, decise. E l'indomani eccoci lì, col magnetofono. Chiacchierammo a pezzi e bocconi per 3 giorni, ora in automobile, ora in albergo, ora nel suo camerino. Oh, ha una voce bellissima, grave e avara. E mi stupì ogni volta per la sua insospettata pazienza, la sua garbata docilità. Il successo che lo sbalordisce, impaurisce, non ha intaccato per niente queste sue virtù. Lo dice anche sua moglie. Nessuno immagina quanto Sean sia paziente. Diane Cilento, sua moglie, giunse a Parigi la sera della prima di Goldfinger. Quando Diane e Sean si sposarono, la più famosa era lei, ma oggi la situazione è rovesciata. E Diane lo commentò dicendo, meglio così. Bond lo perseguita, è vero, ma Sean aveva bisogno del successo. Gli fa bene. Così, stemmi insieme alcune ore e parlammo. A un certo punto lei esclamò, sua moglie, non so come sia riuscita a farlo parlare, cioè, non è il tipo che si esprime bene a parole o le ama. A quanto pare questo incontro è davvero eccezionale, signor Connery. Giusto, l'ha detto. Detesto parlare di me, mi imbarazza, mi annoia. Perché uno deve aprire la porta di casa ai giornali? Entrano, giudicano come vivi o non vivi. D'accordo, sono un attore cui capita di essere un divo del cinema, una macchina per fabbricare denaro. E con questo, a maggior ragione, devo rifiutare i compromessi, stare attento a non perdere la testa, mantenere il mio equilibrio, restare un uomo. E allora che faccio? Me ne vado? Silenzio. Stia qui. Tanto la conosco l'immagine che la gente ha di me, quella di un tipo privo di capacità intellettuali, villano, aggressivo. L'immagine che leggo spesso sui giornali. Quando leggo simili cose, io prenderei le teste di chi le ha scritte e le schiaccerei insieme come 2 noci. Infatti il ritratto che faranno di lei è catastrofico. Il minimo che mi aspettassi ad avvicinarla era trovarmi con un occhio nero alla prima battuta, con il naso rotto alla seconda. Vogliamo far finta che valga la pena correggerlo? Sono assai meno interessante di quello che dicono. Sono un uomo semplice, con pochi difetti e poche virtù. Però tra quest'ultima c'è il senso dello humor, il senso del ridicolo, il senso del valore del denaro, il senso della morale, il senso della verità. Io non dico bugie. Mai. E poi tra i difetti c'è l'egoismo, poi il cattivo carattere. No, non mi arrabbio facilmente, ma se mi arrabbio veramente male. E poi un poco di vanità, forse, visto che faccio l'attore. E poi molta timidezza, sono facilmente vulnerabile. Mi farei tagliare la gola prima di mostrarlo, però mi si ferisce con nulla. E infine sono ambizioso, ma questa, per me, è una virtù. E per concludere, sono scozzese. E questa è la virtù più grossa di tutte, sicché è inutile che mi paragonino a James Bond. Bond è inglese e io sono scozzese. E gli inglesi non mi piacciono affatto perché sono scozzese. Punto. E Bond, punto. Ah, non le piace parlarne, lo so. E io vedo, non ho ancora fatto quel nome. Tra le 1000 raccomandazioni che ho avuto c'è quella di non citare James Bond. Mi si dice che al solo dire il nome di James Bond lei si arrabbia. Ma no, non mi vergogno mica dei film di Bond. Sono divertenti, intelligenti, diventano ogni volta più impegnativi, migliorano ogni volta di qualità. Per me interpretare James Bond è come recitare Macbeth a teatro. Non è poi così facile quel ruolo. Ma non ebbe esitazioni, incertezze prima di recitare il ruolo di Bond. Era la fortuna, mia cara, era la fortuna. E la fortuna capita una volta sola. Ma avrebbero confuso con Bond e vabbè. Per un attore o uno scrittore esiste sempre il pericolo di essere confuso col suo personaggio. Guardi, non esitai un minuto. Anzitutto il contratto era comodissimo. Stabiliva che avrei girato un Bond ogni 14 mesi e ciò mi lasciava tempo per dedicarmi al teatro, altri film. Il che ho fatto. E poi il personaggio di Bond era divertente, destinato a piacere e mi si aggiungeva fisicamente. Io, vede, non ho mai avuto una faccia da bello, una faccia accettabile. Ho sempre avuto quella faccia difficile, da adulto, segnata. Ce l'avevo così a 16 anni. A 16 anni ne imbustolavo già 30. E sfondare senza una faccia da bello è tutt'altro che facile. Ah, già. Vabbè, non so. Ma lei non lo trova simpatico? Sì, sì. Io trovo che Bond sia veramente simpatico, perché lei non crede? Ma non so, non saprei. Quest'uomo che vince sempre, senza moralità... Ma quale moralità? Io non gli ho mai visto rubare la moglie di un altro o tradire la sua. Non ce l'ha. Gli piacciono le donne, sì, ma non la violenta mica. Sono loro che gli si infilano nel letto. È ignorantello, va bene, ma non ha mica il tempo di leggere Joyce. No, no. La verità è che sarebbe interessante se parlassi male di Bond. Ma io non ho proprio nulla contro il signor Bond. Proprio nulla. Grazie. Cioè, secondo me già avete sentito questo modo di trascinare il lettore dentro una persona. Poi ci sono alcune immagini bellissime, cioè alcune modi di espressione che proprio fanno un po' toccare, cioè voce avara, cioè, o modo di parlare avaro, cioè poi ci sarebbero altri esempi da dire. Però questo è un volto di Oriana Fallaci che magari tantissimi di noi oramai non conoscono, perché ci siamo abituati all'immagine della donna che va in guerra. Ah, e, sì. E fondamentalmente lei era una donna che aveva già l'infanzia sotto il segno della guerra, con il padre antifascista che non se lo nascondeva neanche e che ha vissuto molto difficilmente lì. Gli anni della guerra, con lei che partecipava alla resistenza con la sua bicicletta e la sua faccia innocente da quattordicenne, e si dice che proprio questo l'abbia fatto tipo un soldato, cioè sin dall'inizio della sua carriera, che lei abbia preso la professione la sua professione quasi come essere in trincea. Cioè era sempre molto seria, molto dedicata ed anche molto lanciata, anche oltre i confini di tante convenzioni, stili, ma anche di pensieri. E quindi dopo lei ha girato tutte le guerre, un sacco di guerre direi, cioè in Messico, in Vietnam, adesso non potrei fare la lista, però lei è stata un po' ovunque e non si è tirata, cioè è stata anche ferita, ha fatto interviste a un sacco di gente, a un sacco di gente che non si faceva intervistare, neanche Sean Connery all'inizio, e qui siamo all'inizio della carriera di Oriana Fallaci, voleva farsi intervistare. È un pezzo che non ho letto dell'articolo, ma in cui si dice chiaramente che gli agenti, gli agenti di Sean Connery, piuttosto che chiedergli di fare un'intervista, avrebbero fatto qualsiasi cosa, perché ogni volta che gli scrivevano un'intervista sbiancavano in volto e dicevano: no, guardi, meglio di no, è una testa di legno, insomma, è un carattere un po' così. E però invece abbiamo visto quindi l'articolo comincia con questa presentazione di un carattere terribile, una testa di legno, e poi invece si arriva ad avere l'intervista, e l'intervista è questa qui. Cioè, qualcuno che riesce a svelare la persona che sta dietro il personaggio. Esatto, esatto. E ha fatto così anche con gli astronauti, con Glenn, che se io mi ricordo bene è stato il primo a fare il giro del mondo in astronave. È diventata... Era Yuri Gagarin. Fra gli americani, fra gli americani. Poi ha fatto l'intervista a Von Braun, che lavorava sul progetto Luna in America e lei, nella sua testa, lui era un criminale da guerra, ovviamente, perché era uno dei creatori della V2. Sì, non credo che fosse solo la V2, credo che fosse anche uno di quelli che aveva creato la V1. Fosse anche alla base della V1, comunque lui era un esperto di razzi ed è per questo che poi gli americani sono sopportati, perché doveva costruire un razzo che portasse fino alla Luna, cosa che poi è successa. Cosa che poi è successa, però anche la sua intervista a Von Braun è molto personale, perché comincia dall'ottica di lei, bambina, che sta biciclettando a Firenze con le bombe che le arrivano sopra. E sono le bombe di Von Braun, quindi per lei questa connessione è molto personale in un certo senso, e questo, diciamo, questa angoscia di fondo che si contrasta con il tono del discorso con Von Braun, cioè, ne fa un'intervista fantastica. Cioè, mi dispiace che non ce l'abbiamo sotto mano, perché altrimenti ve ne leggerei sicuramente un brano. Però se siete interessati, comunque potete sempre leggere Se il sole muore, che secondo me è uno dei libri magari meno letti della Fallaci, ma che vale assolutamente la pena di leggere. Comunque, questa era quella che abbiamo sentito, comunque era Loriana Fallaci degli inizi. Poi vediamo questa Loriana Fallaci che si muove nella vita, si muove nel mondo, continua a fare interviste, ma cambia non lo stile, perché lo stile è sempre stato, come si vede qui dall'inizio, è sempre stato uno stile molto rapido, molto vicino, molto con un ritmo sempre serrato e che svela appunto le persone. E però si muove e cambia, ovviamente. Come tutti noi cambiamo, anche lei cambia. Verso la fine le cose sono diverse. Sono così diverse che a un certo momento uno degli articoli che fa scalpore è un articolo suo che si riferisce all'attentato alle Torri Gemelle del 2001. Magari per introdurre un attimo, cioè, Oriana Fallaci ha scelto di vivere a Manhattan ad un certo punto, cioè, sì. Ha lasciato la sua amata Firenze ed è andata a vivere in America, a Manhattan, e poi anche era anche abbastanza in silenzio, per decenni è stata in silenzio. Una delle ragioni era che era malata di cancro e stava lottando contro la malattia, dall'altro lato aveva un progetto di libro che, se io so bene, non ha mai finito, che voleva scrivere una grande storia della sua famiglia. E però proprio l'attentato alle Torri Gemelle la fa uscire dal suo isolamento. E questo articolo, La rabbia e l'orgoglio, ha scatenato un'attenzione tale dibattiti di tale anvergure che lei che alla fine lei ha anche scritto un libro sullo stesso argomento e quindi ha fatto un'ultima grandissima botta, diciamo, di carriera prima, cioè effettivamente era la fine della sua carriera, purtroppo anche della sua vita. Quindi magari leggiamo anche un brano. A me non dispiace se leggi un brano di questo, che viene da questo articolo, perché sì, io mi ricordo di aver letto l'articolo a suo tempo e davvero cercavo di capire cosa stava dietro, e devo essere onesto. C'era ancora la toscanità, c'era ancora lo stesso vigore che c'era prima, ma forse più rabbia. Ma sentiamo un po' la Fiordaliso, che cosa. Allora la Fiordaliso non può lasciare questo andare non così. Puoi lasciarla, io ci ho provato. Io che mi esterna non posso mai dire che è la toscanità. Io quello che dico è che questo articolo è davvero è un'espressione di rabbia anche e di sentimento. E quindi io non direi che non posso magari essere d'accordo con tutto ciò che sta nell'articolo, anche se fino ad oggi le idee che ci sono in questo articolo si discutono, sono dette da altri, sono discussi da altri, siamo dopo l'attentato a Charlie Hebdo, siamo, diciamo, in un mondo che si sta trasformando sempre e sempre, e sempre di più siamo coinvolti, diciamo, in questa contrapposizione fra, fra la cosiddetta jihad e noi, quelli di Ovest. E quindi il suo articolo è esattamente su questo, però con una carica emotiva e una rabbia che sono fortissime. Quindi sì, alla fine, cioè, invece di darvi soltanto un pezzo di questa rabbia, senza contesto e senza aver letto l'intero dell'articolo, che è lunghissimo, io preferirei leggervi una parte iniziale che descrive proprio la situazione a cui è dovuta tutta questa rabbia. Mi chiedi anche di raccontare come l'ho vissuta io, questa apocalisse, di fornire insomma la mia testimonianza. Incomincerò dunque da quella. Ero a casa, la mia casa è nel centro di Manhattan, e alle 9 in punto ho avuto la sensazione di un pericolo che forse non mi avrebbe toccato, ma che certo mi riguardava. La sensazione che si prova alla guerra, anzi, in combattimento, quando con ogni poro della tua pelle senti la pallottola o il razzo che arriva e rizzi gli orecchi e gridi a chi ti sta accanto: «Down! Get down! Giù! Buttati giù!» L'ho respinta. Non ero mica in Vietnam, non ero mica in una delle tante fottutissime guerre che sin dalla Seconda Guerra Mondiale hanno seviziato la mia vita. Ero a New York, per bacco, in un meraviglioso mattino di settembre, anno 2001. Ma la sensazione ha continuato a possedermi, inspiegabile, e allora ho fatto ciò che al mattino non faccio mai. Ho acceso la TV. Beh, l'audio non funzionava, lo schermo sì. E su ogni canale, qui di canali ve ne sono quasi 100, vedevi una torre del World Trade Center che bruciava come un gigantesco fiammifero. Un cortocircuito, un piccolo aereo sbadato, oppure un atto di terrorismo mirato. Quasi paralizzata sono rimasta a fissarla, e mentre la fissavo, mentre mi ponevo quelle tre domande, sullo schermo è apparso un aereo, bianco, grosso, un aereo di linea, volava bassissimo. Volando bassissimo si dirigeva verso la seconda torre come un bombardiere che punta sull'obiettivo, si getta sull'obiettivo. Sì che ho capito. Ho capito anche perché nello stesso momento l'audio è tornato e ha trasmesso un coro di urla selvagge, ripetute selvagge. «God, oh God, io, Dio!» E l'aereo si è infilato nella seconda torre. Adesso, aspetta. Volevo leggere, scusate, faccio un saltino, vi leggo un altro passo. Sulla gente che si stava buttando fuori dalla finestra, per non finire bruciati. Agitando le gambe e la braccia, nuotando nell'aria. Sì, sembravano nuotare nell'aria e non arrivavano mai. Verso i trentesimi piani però acceleravano. Si mettevano a gesticolare disperati, suppongo pentiti, quasi gridassero «Help! Aiuto! Help!» E magari lo gridavano davvero. Infine cadevano a sasso e paf. Sai, io credevo di aver visto tutte le guerre. Dalle guerre mi ritenevo vaccinata, in sostanza lo sono. Niente mi sorprende più, neanche quando mi arrabbio, neanche quando mi sdegno. Però alle guerre io ho sempre visto la gente che muore ammazzata. Non l'ho mai vista la gente che muore ammazzandosi, cioè buttandosi senza paracadute dalle finestre di un 80°, 90°, 100° piano. Una cosa dura. Una cosa molto dura. Una cosa molto dura. E lei trasmette anche tutta questa durezza, cioè tutto quello che magari uno attraverso, anche con gli occhi sbalorditi, attraverso le... i telegiornali non riusciva a captare, la capta verso di lei che lo vive personalmente. E io direi, magari concludendo perché il tempo è tiranno, che è proprio questo uno dei grossissimi pregi della Oriana Fallaci, questo filtro personale che ti fa vivere di persona le cose che le stanno succedendo. E tu puoi essere d'accordo o non d'accordo con questo filtro, ma finisci per apprezzarlo tantissimo. Sì, finisce per apprezzarlo, perché non si può, effettivamente non si può non apprezzare, perché sembra di essere questo ritmo incalzante che ha, sembra di portarti sul luogo dove stanno accadendo le cose. Sei anche tu uno spettatore in una scena che avviene davanti ai tuoi occhi. Questa è la capacità, questo è il talento che ha avuto Oriana Fallaci, che ha sempre avuto Oriana Fallaci, e l'ha applicato, ha usato questo talento per spiegare situazioni diverse. Da, come abbiamo visto, un'intervista a un dio del cinema, Sean Connery, ricordiamo che quell'intervista di Sean Connery era del 1964, e poi invece... l'articolo del 2001. L'articolo del 2001 sull'attentato alle Torri Gemelle. Beh, una donna tutto tondo, una, come dicevi tu, rabbia e orgoglio, ecco, per me è questo sinonimo di toscanità, rabbiosi e orgogliosi, magari poi non è vero. Sì, ma scusa, insomma, c'è anche Tiziano Terzani, anche lui è toscano. Anche Tiziano Terzani è toscano, non credo che non si arrabbiasse, non credo che non avesse dell'orgoglio. Ma insomma, con la rabbia e orgoglio noi vi lasciamo, ci sarà questa fiction su Oriana Fallaci, magari guardatela e poi fateci sapere cosa ne pensate voi. Noi però abbiamo fatto quel che potevamo per presentarvela in un modo un po' diverso. Ma leggetela! Siamo agli sgoccioli e non mi resta altro che salutare Danny in regia, Fiordaliso e Giorgio. E allora, buona settimana! Ciao!